بسم الله الرحمن الرحيم. Capitolo secondo. L'intenzione. Anniya. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: il valore delle opere dipende dalle intenzioni e ogni uomo sarà ricompensato in base all'intenzione che l'uomo ha ad agire. Colui che ha fatto le gira, cioè si trasferisce dalla Mecca a Medina per amore di Allah e del suo apostolo, sarà ricompensato in base alla sua intenzione di fare le gira, cioè di trasferirsi dalla Mecca a Medina per amore di Allah e del suo apostolo. Mentre colui che ha fatto le gira, cioè si è trasferito dalla Mecca a Medina per affari mondani o per sposare una donna, sarà ricompensato in base all'intenzione che lo mosse a far le gira. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: gli uomini si dividono in quattro categorie. La prima è quella a cui appartiene l'uomo, al quale Allah ha dato sapere e ricchezza, e impiega quanto ha ricevuto da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, in obbedienza ai Suoi comandamenti. La seconda è quella a cui appartiene l'uomo, al quale, osservando il comportamento del precedente, dice: se Allah mi avesse dato quello che ha dato a Lui, anch'io farei quello che fa Lui. Allah darà la stessa ricompensa al primo e al secondo. Alla terza categoria appartiene l'uomo al quale Allah ha dato ricchezza ma non sapere, e che sperpera quanto ha ricevuto da Allah. Alla quarta categoria appartiene l'uomo al quale Allah non ha dato né sapere né ricchezza, e che, vedendo il precedente sperperare, dice: se Allah mi avesse dato ciò che ha dato a lui, avrei fatto esattamente come lui. Davanti ad Allah, questi ultimi due hanno commesso lo stesso peccato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: Allah non guarda alle vostre apparenze e alle vostre ricchezze, bensì guarda ai vostri cuori e alle vostre opere.